Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Sappiamo bene che la nostra ospite, oltre che disponibile e preparata, è anche molto mattiniera. Siamo in anticipo di un paio di minuti per il nostro appuntamento con il Last Minute odierno, che ci terrà impegnati per 4 serate nel mese di maggio. Intanto do il buongiorno ad Anna Scalfaro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, grazie dell'invito. Ma grazie a voi, anche perché abbiamo un panorama veramente esteso al Dams Lab Auditorium di Bologna già dal titolo. 1000 dischi, dalla classica al pop. Intanto tra un po' passo alla formazione dei co-protagonisti di tutto ciò, perché abbiamo veramente dallo Zenith al Nadir della musica e viceversa. E poi abbiamo anche una bella presentazione che sarà per la giornata di domani, anzi per la serata, si può dire, di domani. Iniziamo anche citando la collaborazione di Pacoda, che già abbiamo conosciuto, che Certo, infatti. È un'idea che nasce da Pier Francesco Pacoda e da me nell'ambito della Soffitta, che è il centro di promozione teatrale del nostro Dipartimento delle Arti Unibo. Così abbiamo detto anche il dove, per cui abbiamo il 3, l'8, il 14 e il 20 maggio, ovviamente 2024, alle ore 17, per queste serate, pomeriggio tardo, dai, che poi ci porteranno, ci accompagnano alla cena con musica, curiosità, percorsi interessanti e anche riproposte. Con chi iniziamo, Anna? Iniziamo con i Gas Nevada. Mi fa molto piacere dire peraltro che questa riproposizione del loro celebre album Six Soundtrack del 1980 è nata da un incontro che abbiamo fatto proprio con loro 2 anni fa, e quindi presentano questa loro rivisitazione elettronica, infatti si chiamerà Synth Soundtrack. Ne parliamo con loro, la formula sarà sempre questa per tutti e 4 gli incontri: parliamo sia con gli artisti sia con i responsabili delle produzioni discografiche, del progetto, di quello che c'è stato dietro. Poi c'è un momento musicale performativo, ci sarà alla fine appunto un DJ set dei Gas Nevada. E quindi l'idea, come giustamente hai anticipato, era proprio quella di non farci mancare nulla, cioè noi stiamo lavorando molto nella direzione dell'importanza di tutte le musiche, quindi dal punk rock degli anni 70 con questo gruppo bolognese così, così importante, e poi andiamo a Bosso, che è stato uno dei protagonisti della musica classica contemporanea, e poi andiamo al romanticismo musicale dell'Ottocento, e infine, per concludere, al Liscio. Io ho portato i due estremi, l'incontro di domani e quello di conclusione. Poi magari avremo modo di risentirci anche singolarmente per ogni appuntamento. Perché la scelta del lavoro dei Gas Nevada, che tra l'altro è stato un lavoro che ha portato veramente note importanti, ricordo la No Wave newyorkese che arriva in Italia, Disco Not Disco, tutto quel percorso elettro con dei groove di grande gusto, ma nello stesso tempo anche molto avanti. Parliamo di chi già aveva portato queste emozioni, ma sono state interpretate in maniera assolutamente importante anche dalle nostre parti, innovativa, sì. A me vengono in mente i Liquid, scusa se ti interrompo, cito i Liquid, i Talking Heads, ecco, per alcuni gruppi. Ti lascio la parola per i Gas Nevada, scusa. No, figurati, ti ascoltavo con gran piacere. Guarda, i Gas Nevada nascono da un nostro desiderio proprio 2 anni fa di soffermarci come università della musica e delle arti su un periodo di Bologna, appunto gli anni 70, che dal punto di vista musicale e non solo, artistico, pittorico, è stato veramente uno dei periodi più fiorenti ancora forse da rivalutare e da diffondere nella sua ricchezza e versatilità. E Ciro Pagano e venne appunto a parlarci con Marco Bongiovanni, insomma, vennero a parlarci della loro storia, del loro passato, ed è stata un'occasione per ritrovarsi. E con gran piacere poi sono stati in questo DJ set che hanno fatto 2 anni fa, ascoltati da un club di Berlino che li ha invitati, e da lì è nata nuovamente la loro collaborazione con questa rivisitazione elettronica, che sicuramente sarà altrettanto interessante, insomma, come i loro esordi. Però è veramente un momento, quello degli anni 70 bolognese, forse unico, e ancora da valorizzare, far conoscere ai nostri giovani studenti, che poi sono il nostro pubblico, non dico prediletto perché ci apriamo alla cittadinanza tutta, però abbiamo un pubblico molto giovane e quindi ci fa piacere portare ai giovani, no, questa musica, certo, degli anni 70. Ci sta, e come, e io ho portato, mi piace vincere facile, ho portato I See Love Affair per i Gas Nevada come stacco musicale per darci un attimo di non solo respiro, ma anche per far ascoltare un po' di musica agli ascoltatori, alle ascoltatrici di Radio Città Fujiko al Breakfast Club in questo last minute, ricordando che l'appuntamento è domani che è venerdì 3 maggio alle ore 17, Dams Lab, Auditorium di Bologna, 1000 dischi dalla classica al pop, e questo possiamo dire che è il primo appuntamento Gas Nevada. Ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo assieme ad Anna Scalfaro, co-curatrice di questi incontri, e parleremo anche di altre sonorità. A tra poco, ci stai? Perfetto. Puoi aspettare un pochettino? Certo, assolutamente. A tra poco. A tra poco. Oltre che una particolare estetica, aggiungo alle formazioni che ho elencato in precedenza, e poi in Italia con i Gas Nevada, quindi un giro intorno al mondo con i Certain Ratio, Liquid Liquid, le ESG, beh, poi non si può non citare i Talking Heads. No Wave, movimento newyorkese, e poi l'Italo Disco che ha avuto una grandissima importanza. Anna, ci sei? Un po' di musica? Sì, ti sento molto lontano, ma ci sono. Mi avvicino al microfono allora. Sì, ecco, perché stavo ballando. Giustamente. Mi stavo muovendo. Però, come ho detto, avremo modo di... Ah, volevo chiederti, come l'hanno presa i ragazzi dei Gas Nevada? Questo... Ah, entusiasti. Ma loro sono felicissimi di ritornare da noi, perché già 2 anni fa ci eravamo divertiti infatti, molto. Mi ricordo, infatti, bene, quindi c'è una riproposta da domani alle ore 17, Dams Lab Auditorium di Bologna, per quanto riguarda questo primo incontro. Procediamo, abbiamo citato le note raffinate del compianto Ezio Bosso e quelle travolgenti e romantiche di Schumann. Qui abbiamo 2 segmenti mediani, direi, cambiamo completamente panorama, Anna. Sì, infatti. E questo viaggio come l'avete portato? Ci sono dei fili conduttori in tutto ciò comunque, seppur così eterogenei? Allora, il filo conduttore in realtà è proprio quello di, se si può chiamare filo conduttore, insomma, della varietà dei, esatto, generi dell'eterogeneità. E dell'eterogeneità Devo dire, mi fa molto piacere, per esempio, che il progetto di Schumann sia, che appunto è l'autore ovviamente più lontano nel tempo, sì, un classico, insomma, un classico romantico per l'appunto, come hai detto, però l'integrale pianistica viene seguita da giovanissimi. La Sofia Donato, che suonerà e terminerà il concerto, è una ragazza che studia al liceo classico, una bravissima pianista, e quindi anche è bello questo incontro tra giovani pianisti appassionati, entusiasti, che studiano appunto con tanta passione e che si cimentano con questo repertorio lontano, insomma, no, dalla loro età. E Zio Bosso poi, insomma, verrà rappresentato dalla raffinatezza, dall'eleganza del pianista Libetta. Vi è poi sarà importante, insomma, la presentazione dell'archivio di questa etichetta Books Seduzioni in Records, che è stato appunto curato dal nipote Tommaso Bosso. E esatto, poi arriviamo al 20 maggio. Ricordo che le serate, ma le riprendo poi nei miei last minute, una è domani, la successiva l'8, poi il 14 si conclude il 20 maggio con un ballo liscio, con una tradizione vocale strumentale del liscio emiliano romagnolo. Esatto, si tratta di due dischi, Un ballo liscio e Balla la bella. I musicisti sono Claudio Carboni e Claudio Borgianni, e mi fa molto piacere concludere con Liscio, non perché se ne stia parlando tanto, per il fatto appunto del patrimonio UNESCO, ma perché spesso viene inteso il liscio solo come un intrattenimento, come una musica da ballo, senza voler sminuire le funzioni, certo, della musica da ballo, che sono importantissime. Perché del resto abbiamo ballato anche con i Gas Nevada. Esatto, per l'appunto, quindi la musica fa tante cose e fa bene anche a questo, no? Ballare. Ma vorremmo mettere in luce anche la ricchezza della melodia, il virtuosismo strumentale, le caratteristiche timbriche, insomma, anche proprio il valore musicale di questa tradizione, che non è mai cessata ed è tuttora vivissima. Ecco, quindi ci piaceva concludere in questo modo. Bene, e noi ne abbiamo dato un'anticipazione, ne daremo un'anticipazione anche in musica, come già sentite dalla base. Ricordo, domani 1000 dischi, dalla classica al pop, rassegna di incontri e presentazioni discografiche. Pier Francesco Pacode, Anna Scalfaro qua al telefono con noi, dalle 17 al Dams Lab Auditorium di Bologna. Domani si comincia con i Gas Nevada. Io ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione e presentazione, e ci sentiamo per i prossimi incontri. Grazie. Ringrazio tantissimo te, buona giornata. Ciao. Cavallo Liscio, volume 2, arrivato da Legea. Ne ho approfittato per dare una colonna sonora anche all'ultimo motivo di incontro che ci sarà per Mille Dischi dalla classica al pop, il primo domani sera alle ore 17, Dams Lab Auditorium di Bologna. Quindi abbiamo ascoltato Arobain nella colonna sonora dedicata a Otto Hoffmann, abbiamo chiuso con Un ballo liscio, anzi voglio essere più preciso, Chimere, il titolo di questo valzerino che è stato proposto da Riccardo Tesi e Claudio Carboni. Così, per la cronaca, ricordo che in questo volume di raccolta dell'Egea vi è anche la collaborazione di Paolo Fresu. Like a Motherless Child, questo standard si può dire qua, interpretato da Kathleen Emery. Ricordo l'appuntamento con Angelica è questa sera, l'apertura per il mese di maggio con Angelica e... è il momento dei saluti. Oggi ero un pochettino così colpito da mal di gola, tosse, è stato con questi cambi di stagione e di temperatura, non sono stato esente da difficoltà, quindi porgo le mie scuse. Però magari domani sarò più in forma, per quanto riguarda In Scena, doppio appuntamento, ospite dal vivo Alessandro Tampieri e poi un appuntamento a cui andrò in conferenza stampa curato da ITC Teatro. Grazie per l'attenzione, per aver fatto colazione con il Breakfast Club, l'appuntamento alle ore 7 è domani, un caloroso abbraccio, un buon mese di maggio dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti. To die.